Realizzare allestimenti in grado di stupire in un luogo come il Salone del Mobile non è esattamente un'impresa alla portata di tutti, talmente alta la concorrenza a livello creativo, ma stupore all'interno di questa fiera edizione 2012 lo suscitano senz'altro le nuove creazioni dell'architetto varesino Piero Russi. Quattro lounge, una aperta al pubblico, le altre riservate agli espositori, che interpretano le tendenze del futuro con un tocco di ironia. In piscina, al centro del Salone del Bagno, è uno spazio che richiama le atmosfere delle vasche olimpiche, con tanto di piastrelle a mosaico e blocchi di partenza, colore dominante ovviamente il blu. In pentola, padiglione 9, e in tavola, al 15, sono invece due ristoranti estremamente sui generis. Il primo è un'enorme pentola traboccante di spaghetti, il secondo un gigantesco tavolo rovesciato con tanto di tovaglione a quadri. La quarta lounge, quella che tutti possono visitare, è forse la più sofisticata. Specchi, pareti colorate riflettenti e quattro aree specifiche dedicate ad altrettanti trattamenti, tra cui lo yoga. Perché anche con il sorriso sulle labbra, all'interno di questa manifestazione, si può celebrare il grande gusto italiano e strappare un'ammirata sorpresa. Fabio Pisanu, Radio 24, Il Sole 24 Ore.